Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Mattino di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. Suo padre con la musica del padrino significava identificarlo in un personaggio potentissimo ma negativo. Non è vero. No. Perché? Quello è padrino, è un film. Papà mio lo piaceva quel film e lo piaceva anche la musica. E noi, quando lui è defunto, l'abbiamo fatto come lui è desiderata. Lui adesso delle su è contento perché noi abbiamo fatto il funerale che piaceva a lui. A 17 anni avevo una Ferrari. Sì. È normale. E lo piaceva così? Dai. Quello non è vestito da papà, quello lui vestiva così. Lo piaceva. Chi vestiva da papà? Andava in giro vestito no, da papà? No, no, quello è il pantalone blu, faccio vedere le foto. Dottor Vesta, tutte vestite bianche stanno qui dentro. Tutte papesse sono loro? Lo piaceva. E se lo piaceva, lo piaceva. Lo piaceva così. Costei è la figlia del Casa Monica, di cui sono stati celebrati i funerali in agosto con tutte le polemiche, i petali di rosa. Lo piaceva. C'aveva una Ferrari a 17 anni e lo piaceva. Polemiche, mamma mia che polemiche, i giornali, le discussioni, in Rai hanno sbagliato, ma come si fa a invitare Casa Monica? Ma io veramente non lo so, ma faccio una domanda, ma se fosse in vita ancora Osama Bin Laden, voi non lo intervistereste? Se uno fa il giornalista, che fa? Non intervista Osama Bin Laden? Ma certo che non intervista. Che ci vuole? Se uno intervista Osama Bin Laden deve avere il contraltare? Se non c'è anche la versione di George Bush, la versione di Osama Bin Laden non va bene? Che idea ha l'italiano del giornalismo? Giornalista fa le domande, certo, ecco, poi magari si deve discutere sul fatto, anch'io ho trovato un po' imbarazzante ogni tanto quando sembravano quasi ridere, no? E scherzare su. Ma è vestito da papa, vabbè, lo piaceva, ma come da papa, vabbè, ma il papa buono, vabbè, il papa buono. Ah, quante polemiche, le 6:34 minuti, cari amici, questa è 24 mattino e la puntata di Porta a Porta con i Casa Monica certo non è stata gradita a mezza politica, soprattutto il PD, tutti a criticare, ma come si fa a invitare Casa Monica, certo, adesso Bruno Vespa ha inventato i Casa Monica. Cioè, i Casa Monica sono, secondo alcune inchieste, libri, padroni di una parte di Roma per colpa di Bruno Vespa. Allora, siamo qui, Lorenzo Nespoli in redazione, il nostro Peter Bescapè in regia. Voglio su queste note subito chiamare un gradito ritorno, il nostro Carletto, il nostro avvocato, il nostro uomo causa, il nostro presidente del Codacons, Carlo Rienzi. Abbiamo dovuto fare un esposto pure per Bruno Vespa. Eccola! L'espostone! Ma come si fa? Quanto ci vuole a fare un esposto? Ma proprio come minuti? Quanto ti prende a fare un esposto? No, ci vuole almeno una mezza giornata, perché sono gli esperti dei vari settori. Noi abbiamo una struttura di oltre 500 giovani avvocati e anche meno giovani, quindi sì. Siamo molto organizzati. Cioè, anche pur essendo organizzati, mezza giornata va via, perché beh sì. Mezza giornata. Anche più, minimo. Quante pagine sono per un esposto? Ma diciamo che sono dalle 4 alle 12, secondo poi i vari episodi, i fatti, le prove, i riferimenti di stampa che bisogna allegare. Mamma mia, ragazzi. È un lavoro serio. Certo che è serio. Quindi una giornata intera, dai, vediamo. Su Bruno Vespa c'erano tanti link, tante dichiarazioni. E poi l'esposto dove si porta? La procura più vicina? Dipende, perché in questo caso va alla Commissione parlamentare di vigilanza, innanzitutto. In altri casi, per esempio, va alla Corte dei Conti quando c'è un danno all'erario, ai soldi pubblici, oppure alla Procura della Repubblica quando ci sono dei reati. Io alle 8.40 avrò ospite il presidente della Commissione Vigilanza Rai Fico, gli chiederò se ha ricevuto questo esposto. Va bene, allora, insieme a Carlo Rienzi è tornata, è lei! È lei, oh, devo confessare una cosa. Aurora Lussana me l'ha detto pensando di parlare in sede separata dalla trasmissione. Io gli ho detto, a questo punto lo dirò in onda. No, ti prego, a questo punto lo dirò in onda. No, per favore, rimanga tra noi. A questo punto lo devo dire in onda. Milan Fassito, che le mei. Il sogno di Aurora Lussana di qualche anno fa. Quanti anni fa risaliva questo sogno? Ma non lo so, sarò stata adolescente, tipo 12-13 anni. Era sposare Eros Ramazzotti! Vedrai che presto tornerà. Quando ero giovane e bella, ovvio ormai. Ma no, sei giovane e bella, che c'entra questo? Sì, vabbè. Più che altro sei sposata. Questo è il problema, esatto. Che ti sei sposata con un brianzolo. Ecco. Hai detto con un tono un po' da dileggio. Un saluto a tutti, brianzoli in ascolto, danesi e non. Danesi e non, good morning. La Danimarca, nuova icona per Aurora Lussana. Danimarca che chiude le porte ai profughi. Allora eccoci qua, Aurora Lussana si sente già danese nell'anima. Sì, stiamo mangiando i biscotti danesi. Eccola lì. Buoni, colazione con biscotti danesi per Aurora Lussana. E aringhe. Tu che tu l'avresti invitati in casa Monica? Li avresti intervistati? L'attacco a Vespa, no, ma sono tutte rogne interne alla RAI, perché è arrivato Campo dall'Orto, hanno cambiato i vertici, i CDA, adesso bisogna fare un valzer di poltrone. Vespa è sempre stato nel mirino in RAI, perché fa ottimi ascolti, ha una struttura importante, negli anni hanno cercato di togliergli puntate e gente lì che lavorava con lui per indebolirlo. Quindi l'avresti invitato? No, a Vespa, no, ma figurati. Sì. Un paese di zingari come il nostro, figurati cosa gliene frega di casa Monica in TV. Ma paese di zingari, ma chi sono gli zingari? Oh. Ma nel senso che voglio dire, il problema sarà mica Vespa, sarà che abbiamo i campi rom illegali e che insomma a Roma cosa c'è mica una cittadina lì, come si chiama, non mi ricordo più, lì abusiva, dove i problemi sono quella roba lì, mica il Vespa. Capito Rienzi, mica il Vespa, ma qual è il problema dell'esposto, Rienzi? Non sono d'accordo, prima di tutto che gli ascolti di Vespa sono sempre stati molto bassi, quindi non è proprio vero. Se la vedrà con la Rai. Sì. No, è evidente che se una persona, un soggetto come Vespa, che poi alla fine della sua carriera ha un'occasione di fare ascolti alti, li fa. Il problema è che lui è dentro un servizio pubblico, anche se ha un rapporto professionale da esterno. Sì. Ma cosa ha fatto di male? Cioè, ripeto, Osama Bin Laden non era intervistabile. No, è il problema del servizio pubblico. Allora, il servizio pubblico ha delle regole. Le regole sono quelle di tenere certi comportamenti e non dare dei messaggi che possono essere dannosi per gli ascoltatori. Ma che messaggio ha dato Rienzi? Ha intervistato la figlia di uno che è stato al centro della cronaca. Dato lo stesso messaggio che ha dato il funerale, cioè ha dato la stessa importanza, ha valorizzato due soggetti che non valgono nulla, se non nella criminalità probabilmente, non lo so, non lo voglio dire perché non sono a conoscenza dei dettagli. Ma questa famiglia che ha decine e decine e decine di indagati, processi. E quindi non possono parlare. Non devono essere valorizzati dentro una trasmissione del servizio. Quindi è una questione di come l'ha trattato il tema, non poteva. Certo, sono stati intervistati tante volte in questi giorni in Casa Monica, anche indagati, con delle brevi interviste, anche politici indagati nei telegiornali, porta a porta. Sì, però scusi, avvocato, sì. Un giorno in pretura, una trasmissione di servizio di Rai 3. C'è questa giornalista, la Petruzzelli, che intervista dei criminali. Una sera l'ho guardata, che c'era una che raccontava che ha carbonizzato la mamma. Ma insomma, la mia amica Franca Leusini fa la TV uguale, con la T maiuscola, dalla T alla U maiuscola, intervistando, andando in carcere. È il male connaturato negli uomini, ma ecologico. Raccontiamolo il male invece, scusi, raccontiamolo. Non è confrontando gli errori con altri errori che si stabilisce che non sono più errori. Fate tutti questo errore, compreso Vespa, che ieri cercava di dimostrare di non aver sbagliato perché qualcuno aveva intervistato Ciancimino, qualcun altro aveva intervistato un altro. Buscetta, effettivamente. Buscetta. Sentiamolo Vespa, che l'ha detto proprio così. Sentiamo allora, Bruno Vespa. Il problema sentiamolo Vespa, che così sentiamo come si è difeso. Porta a porta doveva occuparsene? Sì, come doveva occuparsene? Invitando due persone incensurate e contraddicendo tutte le tesi della famiglia, che è una cosa molto più ampia di Vittorio Casamonica, la famiglia Casamonica, con due signori giornalisti, il direttore del Messaggero e il capo dei servizi giudiziari del Corriere della Sera, e con me stesso. Peraltro incensurate, Rienzi, queste due persone. Che significa che siano incensurati voi due? Vabbè, no, perché allora, si dice ha dato spazio. Allora il confronto che lo fai a fare con Buscetta e con quella, quelli non erano certi incensurati, il problema non è assolutamente quello. Il problema è che comunque sono le espressioni che hanno portato nel servizio pubblico la posizione di una famiglia che ha una responsabilità nella città di Roma, e non solo. Di una serie di vittime dell'usura, di estorsione, di altri reati. Non va bene. E che cosa chiedete nell'esposto? Io non l'ho capito. Cioè, l'esposto per chiedere che cosa? Di valutare se abbia rispettato i canoni previsti per il servizio pubblico, oppure di sospenderlo, di fare una sanzione. Esistono dei provvedimenti per far capire alle persone che a volte sbagliano. Non ho capito, Luciana, la sospensione. Temo il peggio a questo punto. No. Vespa ha portato una volta in trasmissione una macchia della Ferrari con la Marlboro, la pubblicità della Marlboro, e voi l'abbiamo denunciata e ha avuto una multa dalla Guardia di Finanza perché non si fa la pubblicità alle sigarette. Capito, quindi... Aurora? C'è il Codacons che vigila. Per me ti arriva un esposto anche a te perché intervisti. No, esposto. Per Aurora Lussana, no, assolutamente. La di valorizza questo fatto. No, però non ho capito. Aspetta, però perché Aurora temi adesso? Temi che? Dici temi? Non so, mi sembra un po' ideologica, nel senso che adesso non ricordo nei dettagli com'è la carta, perché viene rinnovata spesso la carta di servizi della RAI. Però voglio dire, se la TV di Stato ha dei limiti è per altre trasmissioni, per esempio, dai, adesso l'hai detto tu, adesso le elenchi dalla prima all'ultima. No, ci sono delle robe un po' inguardabili, ma l'informazione che fa Vespa è di altissimo livello, appunto. A me piace Vespa, mi piace, e l'altra sera guardare Casa Monica mi è sembrato tutto fuorché apologia di zingarismo, apologia di zingarismo, ma cos'è lo zingarismo? Ma dai, non ha fatto nessuna apologia né del crimine né di questo clan, che è un'infamia per Roma, sono i romani comunque, che devono cacciare Casa Monica, mica vero. Ecco, chiudiamo la questione così. Gabrielli fa un'intervista oggi a Repubblica e dice: i Casa Monica pagheranno il giusto fio per quello che hanno combinato, non la passeranno liscia. Non è una minaccia, ma bisogna far capire che a qualcosa fatta corrisponde una risposta. Ma perché sono andati la Vespa? Chiaro, non è che perché sono andati da Vespa, però anche per il funerale adesso Gabrielli alla fine si incazzò, ecco, questo è il sunto. Andiamo al traffico, che poi Lussana ci deve dire perché si sente danese nell'animo. Lei è bionda, occhi azzurri, proprio danese, appena uno la vede dice: guarda, te è scappata da Copenaghen questa qua. E ora Milan, ma non saffoco, o saffoco! Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta... Guarda Alessandro, cosa ti volevo dire? Non ho mai sentito da nessuno, danno sempre la colpa a quei poveri ministri o al presidente del consiglio di turno, ma il vero merdaio è sotto, è in quelle facce che non conosciamo, in quei nomi che non conosciamo. Alessandro, buongiorno, vorrei averti come nipote, ma purtroppo non è così. Volevo dire, quando io vado all'Arena Verona, ci sono i turisti, specialmente tedeschi, che hanno una scatoletta di sigarette vuote e la mettono le cicche. Uè Milan, facciamo un po' di conti. Allora, 5 settimane di vacanza in estate, più almeno 2 a Natale e 1 a Pasqua. Totale 8 settimane all'anno di ferie. Praticamente lavori 10 mesi all'anno. Quindi ti nomino ufficialmente il re dei debosciati. La signora Madrazza deve sapere che è puttana, sono il sale della vita, quindi la salaria non la toccate, sapete, si chiama salaria perché una volta transitava il sale, adesso transita le puttane e quindi il sale della vita. Continuiamo a lasciare aperta la salaria, per favore, nessuna multa, pensate a mettere in galera quelle che rubano a Roma, capisce signora Madrazza? Questa è la risposta a chi vuole multare a Roma, è Aurora Lussana, vogliono multare i clienti delle prostitute, a salaria, la saggezza napoletana. Hai visto quella che mi vuole come nipote? Che non tutti mi disprezzano come pensi tu, non tutti mi disprezzano. Nessuno come marito ti vuole, no, vabbè, moglie, sì, che brava, mia moglie mi sopporta come marito, non è che mi vuole come marito, mia moglie mi sopporta come marito, nessun'altra mi vuole come marito, questo. No. Ahimè, va bene, allora cara Aurora, ti senti danese nell'animo? Perché? Perché? Dai, anzi senti qua, Morandi che ha detto apro le... Signor. Cosa c'è? Morandi ha detto apro forse casa mia dei prof. Forse sì. Vediamo quanti. Vabbè, ci pensa già Salvini a criticarlo. Senti qua Salvini. Daresti qualche nome a Gianni Morandi di italiani che sono in difficoltà, visto che immagino tu ne abbia... Magari di quel cittadino di Mirandola, Antonio, che ha provato a darsi fuoco in comune perché l'avevano buttato fuori persino dal container dopo che aveva perso la casa nel terremoto. Prova a dargli quel nome al Giannone. Al Giannone da Radio Padania, ma io adesso, scusa Aurora, adesso avete rotto le scatole con e prendi la casa tua, adesso uno che dice li prendo a casa mia e no, prendi prima gli italiani in difficoltà. Oh, ma uno allora cosa deve fare uno perché Gianni Morandi avanguardia filo emigrazionista, no, quella borghesia semicolta che si ammanta di antirazzismo, cerca così di apparire migliore degli altri annunciando di voler ospitare, sì, nelle loro ville, nei loro attici, qualche profugo. In realtà, insomma, voglio vedere quanti ne prende, per carità. Sì. No. Vabbè, vediamo. Però il concetto... Che abita sui Colli Bolognesi. Però so che si sono molto indignati in Emilia, sì, perché c'è tanta gente, sono tanti emiliani che vivono ancora nei container, insomma, c'è stato un terremoto pochi anni certo, fa. Ma certo, ma voglio dire, però capisci che così uno non la fa mai giusta. Prima è criticato perché parli, ma però casa tua non la prenderesti. Ma non è che gli fanno schifo. No, prima no, gli vabbè. Si diceva parli, ma non apri casa. Adesso che apri casa dice no, ma apri casa quello sbagliato. Ragazzi, uno come fa? Non so. Vedi, ma Carlo Rietti, tanto mandiamo le case a Rienzi, dai, a casa Rienzi. Il culto laico dell'accoglienza. Ma no, il culto laico. Con un velato disprezzo nei confronti dei nativi. Ma smettila, aspetta, Carlo Rienzi, di qualcosa a te. Vi ricordo che i migranti sono già ospitati nelle case degli italiani perché c'è un 20% di famiglie che ha bisogno e usa nel senso che impiega immigrati per l'assistenza agli anziani e ai bambini. Eccetera. Quindi, ma questo... sono lavoratori. Se la famiglia potesse sapere con certezza, e questo dovrebbe fare lo Stato, che quell'immigrato non ha precedenti penali, non ha condanne, non è dell'ISIS, faccio una battuta ovviamente, e quindi è una persona come tante altre, sì, che può lavorare correttamente, li ospiterebbero tutti. perché sarebbe uno scambio di utilità. Vabbè, quello è essere negrieri, no? Nel senso, il lavoro domestico va pagato, l'assistenza agli anziani va pagata. Certo, viene pagato anche con no. Ma guarda, Aurora, che Angela Merkel ha fatto. Ma volete manovalanza a basso costo? No, beh, guarda, no, allora. Non ho capito. Ma no, che a basso costo? Angela Merkel ha fatto. Guarda, che fissare dei profughi per poi sfruttarli nel lavoro domestico. Sfruttarli? Ma perché sfruttarli? No. Ma perché sfruttarli? Sì, guarda, sì, che allora, Angela Merkel ha fatto un investimento, questo ma l'ha detto Alberto. Ma germanizzandolo, cioè lei è un'operazione di germanizzazione. Ma no, ha fatto un investimento lungimirante. Scusi, ma non ha mai sentito questa signora Rustano? Le ragazze alla pari, le conosce? Vabbè, ma che c'entra? Vabbè, ma comunque, Aurora Lussana, invecchiamo, nessuno paga più le nostre pensioni, Dio. Nessuno fa più certi lavori, e Angela Merkel Angela Merkel si è messa lì e ha detto servono queste persone. Non è mica aspira alla santità, ha fatto un discorso, discorso pragmatico, cioè è chiaro non che si dà la carità, mica... è peggio dare la carità come vorrebbe, mi pare, la Lussana. È una cosa sbagliatissima. No, la Lussana proprio li vorrebbe tenere, come dire, come cagnolini. No, li vorrebbe tenere a casa loro. Ma io lo faccio io le sfondo, ma perché i cani li tratto meglio dei cristiani, voglio dire, No, io capisco che lui si eccita a immaginarmi così con persone sottomesse, ma ti assicuro che non è così. No, non è così. Quello che dice però non è così. Allora però dillo con noi, Aurora. Lui fa tanti esposti, però se io sapessi che qualcuno sfrutta il lavoro nero di questi pseudoprofughi, io farei l'esposto, quindi si occupi magari un po' di quello. Allora, gente cooperative, gente che sfrutta i lavoratori stranieri e italiani. In Puglia a fare gli esposti contro i caporali. Fate quello invece che pensare a chi sottometto io, va, che le meglio. Parte civile in quel procedimento. Ma perché tu hai mai sottomesso qualcuno, Aurora? No, adesso mai. Questo interessa a me. No. Vabbè, ti toccava. Se mai l'opposto, fermiamoci qua. Allora. Se mai l'opposto, si fa sottomettere. No, sono una persona estremamente. Allora, parlavo della Danimarca. La Danimarca. In realtà devo chiudere la Danimarca. Mi dirai della Danimarca. Dimmi in 10 secondi cosa pensi della Danimarca. Dammi una ricetta della Danimarca, così mettiamo insieme tutto. È un paese straordinario che difende la sua sovranità e e la ricetta. No, l'unica cosa che ho trovato è che si può fare a casa questo pane imburrato. Sì. Prendi danese. Il pane di segale. Sì. Praticamente con gli affettati, formaggi, pesce, uova, salsa. Pane, affettati e burro, questo. E poi la ringa. E la ringa, pane, affettati e burro e la ringa. È una perfetta ricetta per sentirsi da eccola lì. Va bene, dai, vi devo salutare. Carlo Rienzi, presidente del Codacons, e Aurora Lussana, grazie per essere stati con noi. Dopo il giornale radio rientriamo con la rassegna stampa, oggi ricchissima, ci sono tante cose bellissime nei giornali. Il segnale orario vi è offerto da Gran Moravia e Burro delle Alpi di Brazzale, fidati di chi conosci da 200 anni. Alessandro Milan, che leggerà le notizie in una maniera che non potete rifiutarvi. 24 mattino. Eccoci, le 7:18 minuti, cari ascoltatori, siamo pronti alla rassegna stampa, ma poi avremo una puntata ricchissima di ospiti e parleremo del caso Vespa, Rai, avremo il presidente della commissione vigilanza Rai, l'onorevole Fico, Roberto Fico del Movimento 5 Stelle, avremo anche Lirio Abbate, giornalista che ha scritto un libro anche sui Casa Monica, su Roma in generale. Ma parleremo di immigrati, avremo un confronto tra Cécile Kyenge, ex ministro europarlamentare oggi del PD, e Claudio Borghi, responsabile economia della Lega. Insomma, come vedete, tanti temi dalle 8:15 fino alle 9:30, ma subito i giornali oggi ricchissimi di tanti spunti. Eccoci qua, giovedì 10 settembre, i titoli intanto, chi sceglie come il Sole 24 Ore, borse, l'Europa corre, effetto Tokyo sui listini, o Il Messaggero manovra stop alla local tax, questo è il titolo di prima pagina. Chi invece guarda all'estero e alla crisi internazionale, il Corriere della Sera con la mossa di Putin nella crisi siriana, i timori degli Stati Uniti. Ci sono anche tanti titoli su Vespa, eh? Vespa libero non piace al PD, questo per il giornale. Rai, l'editto toscano del PD, questo è il titolo di Libero. I Casa Monica da re Bruno Vespa, anche il manifesto in prima pagina. Mentre profughi il no danese, questo è il titolo di Repubblica. Mentre la stampa, Siria, truppe russe in campo. Questo è un rapido sguardo ad alcuni dei titoli. Voglio subito tuffarmi però nella lettura e proprio delle polemiche della vicenda Bruno Vespa, che ha invitato Vera Casamonica insieme a Vittorino Casamonica, e cioè due parenti. Vera è la figlia del Casamonica, che è morto, e in agosto ci sono stati i funerali tanto discussi. Il Fatto Quotidiano mette un po' gli stralci del faccia a faccia che c'è stato e che ha suscitato molte polemiche. Molti dicono, soprattutto quello che viene imputato a Bruno Vespa, non è tanto l'avere ospitato queste persone, ma di averle fatte proprio accomodare in Rai. Magari, siccome in TV conta molto anche l'immagine, conta moltissimo il contenuto, e anche come si pone e come si propone, forse un collegamento esterno invece che farle accomodare lì in quelle che sono le poltrone della cosiddetta terza camera italiana, non è stata proprio la cosa giusta. E infatti eccole qua le tante reazioni. I Casamonica e il Rai diventano un caso, questo per il Corriere della Sera. Polemiche per l'intervista alla figlia e al nipote del boss, i democratici all'attacco. Così bufera sui Casamonica in TV, è il titolo del Messaggero a pagina 9. Vespa si difende dicendo: faccio il mio mestiere. Quello che sono interessante sono alcune interviste. Intanto l'intervista al sindaco di Roma, Ignazio Marino. Io l'avevo detto qualche giorno fa, secondo me ci regalerà un autunno con grandi soddisfazioni e con dichiarazioni mica male. Sentite che cosa ha detto Ignazio Marino, intervistato da Francesca Schianchi sulla Stampa a pagina 7. Guardare Vespa è peccato, sarebbe da rottamare. Così Ignazio Marino: non lo guardo più io porta a porta, non lo guardo da quando mi occupavo della legge sulle cure del fine vita e Bruno Vespa mi invitò, proiettò immagini di malati non in stato vegetativo ma presentandoli come tali, facendo passare il messaggio che dallo stato vegetativo permanente sia possibile riprendersi. Questa non è informazione. E sentite cosa aggiunge Marino: da cattolico penso che guardare porta a porta si faccia peccato e bisogna confessarsi. E allora che ne pensa della puntata di martedì? Me l'ha raccontata, mi sento offeso come sindaco della capitale, come cittadino che paga il canone. Ma guardi che gente come Lupi, Brunetta, Santanchè hanno difeso Vespa. Ma sa, risponde Marino, loro sono cresciuti nella forza politica nata con Berlusconi, che era capo di un governo il cui ministro Lunardi disse che con la mafia bisogna convivere. Era il 2001, ero chirurgo a Filadelfia e fece notizia anche lì. Io non trovo offensivo il fatto che siano stati invitati Casamonica, ma è offensivo il fatto che si dia spazio a un episodio che nell'immaginario collettivo, al di là della responsabilità penale dei singoli, è stata vista come la prova di forza di una famiglia mafiosa. E dice Marino: ho avuto un dialogo molto rigoroso col presidente della commissione vigilanza FICO, ha dimostrato spesso grande determinazione, spero svolga un'indagine per capire la responsabilità. Lo chiederemo a FICO, nostro ospite, alle 8.40. E ancora: ma andrebbe rottamato allora secondo lei Vespa? La risposta di Marino è sibillina. Io vengo dal mondo anglosassone, dove quando qualcuno mantiene un ruolo per più di 10 anni si pensa sempre che ci sia qualcosa che non va. Penso ci siano tanti giovani giornalisti che sarebbero perfettamente in grado di sostituirlo. Così il sindaco Marino, per usare un'espressione che va in voga anche è in voga su Twitter e in rete, la tocca piano. Il titolo è: Vespa sarebbe da rottamare, guardarlo è peccato. Mentre invece Carlo Freccero fa una serie di interviste. Carlo Freccero nel CDA della RAI, al Manifesto, per esempio, a Daniela Preziosi dice: io faccio una premessa, ho visto Ballarò martedì e poi ho visto Sky, quindi non ho visto la puntata, la rivedrò, ma da direttore di rete io ho subito la censura sulla mia pelle, quindi da consigliere di amministrazione non farò mai il censore di Vespa, proprio no. Vespa si sceglie gli ospiti che vuole. Certo, trovo surreale che dopo Renzi abbia chiamato Vera Casamonica, ma è il talk postmoderno che crea queste assonanze. I Casamonica hanno anche fatto più audience di Renzi, un dato molto interessante. Così Carlo Freccero, che poi aggiunge: un giornalista deve indagare, fare inchiesta, mostrare, fare domande anche ai protagonisti, anche delle malefatte. La trasmissione è stata secondo un secondo corteo coi petali che scendevano dal cielo? Beh, sarebbe stato disastroso per lo stesso conduttore. Piuttosto mi chiedo perché Vespa non abbia mai intervistato gente come Daniele Luttazzi, vittima della TV, oppure Corrado e Sabina Guzzanti. Così Carlo Freccero. Interviene anche il prefetto Gabrielli. Per carità, premette subito nell'intervista a Repubblica, pagina 4, ci manca solo che faccia anche l'amministratore delegato della RAI o il dirigente RAI o il presidente della RAI o il direttore di testata, io faccio il prefetto. Certo, un'idea me la sono fatta, un'idea di merito, ed è questa: che il funerale di Vittorio Casamonica e la celebrazione del suo clan ne saranno la nemesi. Vedere figlia e nipote del boss col cappello in mano da Bruno Vespa è la dimostrazione che i Casamonica hanno compreso in quale guaio si siano infilati e quale errore abbiano fatto ad accendere un riflettore che ora, con ogni evidenza, non controllano più. Mettiamola così, aggiunge il prefetto Gabrielli, pagheranno a breve il giusto fio di quel che hanno combinato. E lo dico non per annunciare vendette, ma semplicemente per segnalare che nella logica del ripristino della legalità in questa città va affermato il principio che a un atto corrisponde una conseguenza. E questo Gabrielli è molto, molto duro. Andare in TV non serve a nulla, quelli del clan la pagheranno. Questo è il titolo dell'intervista al prefetto di Roma, che poi parla della città e smentisce per l'ennesima volta del fatto di essere un co-sindaco con Marino. Dice: mi ha mandato anche della badante di Marino, non mi piace questa storia, con tutto il rispetto per le badanti, e non mi piace, sa perché? Perché quella definizione presuppone una condivisione di responsabilità tra me e il sindaco, cosa che non è. Siamo fuori dallo schema Totò. A presente, quando va bene viva Michele, quando va male in quel posto a Pasquale. Le cose sono molto chiare, l'ho detto anche a Marino nel nostro primo incontro. Roma non ha due sindaci. Così Gabrielli. Sulla vicenda, insomma, troverete tantissimo. Abbandoniamola, va, per ritrovarla più tardi. Allora, si sono fatti la leggina. Avete visto, ieri è stata approvata in prima lettura alla Camera la leggina, che fa una deroghina per cui quest'anno, pur non avendo i soldi con i bilanci a posto, i partiti si prenderanno i soldi del finanziamento pubblico. Il Movimento 5 Stelle ieri ha protestato in aula, sono volate anche banconote da 500 euro, finte ovviamente, voglio immaginare, anzi sicuramente finte, prendetevi anche questi, se no ci sarebbe stata, come Peter Bescapè simula, una rissa in Parlamento. Scherziamo ovviamente, però insomma, veder volare banconote da 500 euro anche per chi ha un lauto stipendio non è poca roba. Allora, il Movimento 5 Stelle ha protestato, prendetevi anche queste, vergogna. Eccola qui, la sanatoria sui fondi ai partiti, via libera senza controlli dei bilanci. È il titolo del Corriere della Sera, c'è anche un commento di Sergio Rizzo che scrive: non è una cosa seria e viene il sospetto che non lo sia mai stata fin dall'inizio, da quando 3 anni fa il Parlamento, sull'indignazione popolare, approvò una legge che dimezzava i rimborsi elettorali. La prova che non è una cosa seria è nella leggina maleodorante che consentirà il versamento dei soldi pubblici spettanti per il 2013 e 2014, pur in mancanza del visto di conformità della commissione incaricata di verificare i rendiconti. Commissione che non ha personale. Ma quando il presidente lo ha denunciato, spunta la proposta di legge, una legge del Parlamento per affiancare ai magistrati una decina di impiegati. Ma in soli 3 mesi, da giugno a oggi, non se ne viene fuori. E allora? Ecco l'inevitabile sanatoria. La sanatoria è una leggina, dai, hanno fatto una leggina. Vabbè, sono cose che capitano, lo dico io prima del che lo dica. Che lo dica la nostra celebre spezzone di film. Ma a questo proposito siamo al premio per l'articolo che mi fa più insare di questa giornata. È una vicenda molto triste di burocrazia, triste anche perché riguarda un ragazzo scomparso a 22 anni. Due genitori che scrivono una lettera accorata anche al giornale, che oggi ritorna su questa vicenda, dicendo: nostro figlio è morto a 22 anni e abbiamo fatto richiesta alla scuola, dove ha sostenuto la maturità qualche anno fa, di poter avere il tema di nostro figlio come ricordo. Ce l'avevano segnalato come uno dei temi migliori e allora volevamo tenerlo, volevamo leggerlo, vorremmo sapere che cosa ha scritto come ultimo ricordo di nostro figlio. Hanno fatto richieste a tutti e hanno ricevuto solo dei no. Non si può, per legge, la burocrazia. Sentite qui Elena Tebano, pagina 26 del Corriere della Sera: l'amore non è rilevante. Negato il tema del figlio morto. Per l'amministrazione scolastica è un documento ufficiale destinato a ingiallire dentro un pacco sigillato con spago e cera lacca, come succedeva nell'Ottocento, conservato negli archivi del liceo classico Jacopo Stellini di Udine. Hanno scritto a tutti questi genitori. Alla fine il preside del liceo Stellini ha detto: non posso, è la legge. È la legge 241 sull'accesso agli atti amministrativi. Posso rompere i sigilli, aprire agli atti solo con due testimoni e solo se è necessario per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Capisco il dolore, capisco lo strazio dei genitori, ma le motivazioni affettive non sono giuridicamente rilevanti. Ci rendiamo conto? Ah, la legge in Italia, quando serve a fare ste stronzate, la legge funziona benissimo. La legge. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice: sono cose che capitano. Alino Mila è il primo che senti di scuro la mattina quando arsi e quando senti la radio e che ti dà tanta allegria da metà paura. Dialetto fanese. Grande, grandi a Fano. Eccoci qua, mandatecelo, eh. Ieri eravamo a Molfetta, oggi a Fano, il dialetto fanese. 0246524492 sono le vostre sigle. Regione per regione, comune per comune, provincia per provincia. Va bene anche qui le province. Allora, cari ascoltatori, parliamo di immigrazione perché ieri il presidente della Commissione Europea Juncker ha fatto la proposta illustrandola al Parlamento Europeo sulla ripartizione, chi se li deve prendere, chi no, gli stati. Ovviamente è un piano molto complesso. Juncker presenta il piano, aiuti a chi fugge. C'è però il caso Danimarca, come titolo del Corriere della Sera: la Danimarca chiude le sue frontiere. In questo c'è da dire che il genio di chi fa i titoli in prima pagina sul Manifesto si tramanda davvero di generazione in generazione. Guardate la prima pagina del Manifesto, citando l'Amleto di Shakespeare: c'è del marcio. Questo è il titolo di prima pagina, evocando appunto il c'è del marcio in Danimarca. Ovviamente molto critico il titolo del Manifesto, c'è la foto di alcuni poliziotti danesi con un migrante. La Danimarca chiude le sue frontiere. Aiutiamo chi fugge, dice il presidente della Commissione Europea Juncker, e raccoglie applausi, qualche mugugno, un po' di commozione. È l'appello che fa Juncker, ma ciò che avviene molto prima, in queste ore, già lo smentisce. Sto leggendo l'articolo di Luigi Offeddu sul Corriere della Sera. Ed eccolo qui. non solo perché 6 paesi guidati dalla Gran Bretagna bocciano immediatamente il nuovo piano europeo per la redistribuzione di 160.000 migranti, ma soprattutto perché al tramonto la Danimarca blocca tutti i treni provenienti dalla Germania e poi i traghetti che arrivano sempre dalla Germania e poi ancora l'autostrada che unisce la Danimarca alla Svezia. Aumentati i controlli dei passaporti, fanno sapere formalmente come giustificazione da Copenaghen, ma ben pochi fra quei tanti in fuga dalla guerra hanno un passaporto da farsi controllare. Poi la Danimarca, anche se è uno Stato membro dell'Unione Europea e aderisce agli accordi di Schengen, insieme con la Gran Bretagna e l'Irlanda, è stata esonerata dalla ridistribuzione annunciata proprio ieri da Juncker. Dunque non avrebbe ragione di temere l'ondata di nuovi arrivi, ma se ha fatto quel che ha fatto, nonostante le norme di Schengen e il dogma europeo della libera circolazione, Copenaghen deve avere captato un'emergenza già quasi fuori controllo. Comunque, questo fanno in Danimarca. La sfida di Copenaghen, chiuse strade e ferrovie, stop ai profughi, anche il titolo di Repubblica. Viene intervistata dall'Unità, ma da Maria Zegarelli, Laura Boldrini, presidente della Camera e per tanti anni è stata capo del portavoce dell'Alto Commissariato per i Rifugiati dell'ONU. La presidente della Camera dice: fuggono per mettere in salvo i figli, hanno diritto alla sicurezza, non è un diritto solo nostro e i fili spinati non servono. Scrive l'Unità, che si presenta con un nuovo taglio di capelli che mette in risalto il viso. Vabbè, la presidente della Camera Boldrini, intervistata: ho apprezzato molto le parole di Juncker anche per l'onestà con cui ha messo i punti di fragilità. Non è facile dire che siamo in una fase di poca Unione e poca Europa, ma l'aver descritto con chiarezza qual è la realtà deve indurre tutti gli Stati membri a una profonda riflessione. Non servono i fili spinati, così dice Laura Boldrini. La cancelliera Merkel ha preso una posizione in modo formale e parleremo proprio del punto di vista europeo, dei vari punti di vista europei, dalle 8:15. Ho una notizia che farà certamente piacere, la scrive Libero a pagina 3, e che con Chiara Pellegrini Bruxelles vuol fare anche un'operazione maquillage, un'operazione pubblicitaria, e per questo sono stati stanziati dei fondi, 26 milioni di euro per la precisione, in realtà 25 milioni e 750 mila euro verranno impiegati per pubblicità su web e comparsate televisive, radiofoniche. Questa è l'anticipazione del sito politico politico.eu, sono indiscrezioni di questo magazine online che ha pubblicato la bozza del piano e sta mettendo in piedi Juncker una gigantesca campagna pubblicitaria per accrescere il sentimento europeo di vicinanza nei confronti dell'Unione da parte di tutti i cittadini. Tutto ciò costerà, secondo lo stanziamento, 25.750.000 euro. Sempre cifre. Fiorenza Sarzanini racconta al fronte italiano il piano del Viminale operativo. 3.000 nuovi posti si troveranno in Campania, 5.000 si troveranno tra Lombardia e Veneto. Insomma, il Corriere dà le quote regione per regione. Volete sapere quanti andranno in Abruzzo? 453 dei nuovi arrivati, In Basilicata 299, in Campania 3.662, in Veneto 2.075, in Lombardia 3.421. Bisogna trovare 20.884 posti regione per regione. Questa è un po' la distribuzione. Ci sono delle zone come il Molise dove non andrà nessuno, o la Calabria dove non andrà nessuno, regioni come in Piemonte andranno in 1.781, in Toscana 2.009. Insomma, questo è il piano operativo. Ovviamente bisogna trovare questi posti e subito partiranno nuovamente le polemiche. Intanto saluto Mauro Meazza. Buongiorno Mauro. Buongiorno, buongiorno. Volevo un chiarimento. Sì. Volevo sapere, ma ad ascoltare Alessandro Milan uno fa peccato? Non lo so, non lo so. A guardare porta a porta per il sindaco Marino, sì. Infatti lo ascoltavo prima dalla e poi bisogna confessarsi, ha detto Maria. Appunto, io che a me che tocca ascoltare Alessandro Milano tutte le mattine, cosa non so, speriamo nel giubileo. Giubileo. Senti, speriamo nel giubileo anche perché non so se hai già avuto modo di leggere a dovere il Sole 24 Ore, ma servirebbero un po' di fondi per gli esodati. Ah sì. Ti ricordi gli esodati? E come no. Anche allora, perché quei fondi sono spariti. No, spariti no. No, no, no. Saranno da qualche parte, però il ci ministero saranno. Dice che non li mette a disposizione. Quindi ci sarebbero un poco meno di 50.000 persone, lo spiega oggi Colombo, l'ottimo Davide Colombo sul Sole 24 Ore, e servirebbero anche dei soldini. Tu cosa puoi mettere? I soliti due euro di prima delle vacanze? Quest'anno siamo in ristrettezza. Un euro e cinquanta. Che... Ecco, allora guarda, servirebbero anche per l'opzione donna. Sì. Che non dire sì se non sai di cosa stiamo parlando. Servirebbero anche, che mi hai innervosito. Cioè, sì, va bene. Già ti do 1,50 euro e tu ne chiedi altri. Va bene, sì. Vorrei un po' di più perché mi servirebbero per l'opzione donna, che non c'entra con cose irriferibili a quest'ora, specialmente alla radio, ma per il fatto di poter anticipare appunto il ritiro della pensione per le donne, passando però integralmente al sistema contributivo. Mm. Se non hai capito, puoi leggere il Sole 24 Ore di oggi. Esatto. Vabbè, però Alessandro, non è che se può, uno fa veramente il possibile. Invece, una buona notizia, la vuoi? Sì, come no. Il livello di erogazione dei mutui nel 2015 per l'acquisto degli immobili da parte delle famiglie è tornato a livelli 2007. Ah. Non è una cosa trascurabile, te lo spieghiamo nelle pagine di Impresa e Territori. Anche i consumi sono cresciuti il 2%. Naturalmente riferiamo anche dei consumi, ma questo dato sembra incoraggiante. 33 miliardi e mezzo, mi riferisce il collega Orlando sulle pagine di Impresa e Territori. E poi ti voglio dire che naturalmente anche oggi prosegue la guida al Jobs Act. Sì. Questa volta ti parliamo degli ammortizzatori sociali, quindi i sistemi per chi perde il lavoro. E poi ti voglio dire che nelle pagine di Norme e Tributi ti riferiamo anche del disegno di legge sulla concorrenza. Oh. Tu dirai, ma non l'avevano già approvato? No, è ancora in discussione. Sono norme in arrivo che riguardano gli avvocati, i farmacisti e altro ancora. Ma se leggi, guarda, vai su Norme e Tributi e troverai tutto quanto. Ti segnaliamo anche una sentenza che mi piace dirti. Guarda che offendere il vigile che ti fa la multa è reato. Ma lo hanno confermato. Quindi... Anche se vai a casa tua, ti chiudi a casa e dici ciò che pensi? Se lo dici a casa tua nel tuo cuore, allora no. Però certo che se tu glielo esprimi in modo offensivo, reato, non peccato, reato. Un'ultima cosa, un'ultimissima cosa. Questa mattina viene presentato uno studio di un'agenzia europea sui falsi articoli sportivi. E perché se ne parla? No, è una cosa molto seria, lo anticipiamo oggi sulle pagine, anticipiamo qualche risultato sulle pagine di Imprese e Territori, ma ti voglio dire, ci costa una bellezza di 500 milioni. Cioè poco di più di quello che è stata la campagna acquisti delle nostre due squadre. Vabbè, che dire, auguri per domenica. Vedremo chi ha comprato il falso articolo sportivo. Lo scopriremo domenica, per intanto traffico! Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta... Alessandro Milan, la cannuccia nella Coca-Cola dell'informazione. Milan, tu sei una fava. Ciao bello. Va bene, va bene. Grazie cari ascoltatori. Allora, Beppe Grillo ieri ha fatto una conferenza al Senato e ha lanciato Di Maio come suo delfino, Luigi Di Maio, questo almeno raccontano i giornali. Ha fatto una conferenza per presentare il reddito di cittadinanza, un tema che abbiamo affrontato, è la proposta che vuole portare avanti il Movimento 5 Stelle. Dice Di Maio, fossimo noi al governo, il reddito di cittadinanza sarebbe già una realtà. Grillo incorona il delfino Di Maio, maledetto sei tu il leader, questo è il titolo di pagina 19 di Repubblica, Annalisa Cuzzocrea. Tra l'altro c'è questa battuta di Beppe Grillo che dice: ho fatto una cena con gli ambasciatori di Lettonia, Finlandia, Svezia, Norvegia, Lituania, Estonia, Danimarca, abbiamo parlato di reddito di cittadinanza che per loro è preistoria, poi volevano sapere da me che cos'è il movimento e che dovevo dire? Come fai a spiegare il buddismo o il jazz? Ecco la vena poetica di Beppe Grillo. Così il Movimento 5 Stelle. Mentre segnalo, per quel che riguarda Berlusconi, che è in visita a Putin, è volato, è andato via, è andato da Putin 5 giorni, un'interessante intervista che trovate sulla Stampa e anche sul Secolo XIX a Fedele Confalonieri, presidente del CDA di Mediaset e da sempre storico amico di Silvio Berlusconi. Pagina 4 del Secolo, la leggo da qui, Ilario Lombardo, intervista con Falonieri. Senta, presidente Berlusconi, è un momento di forte difficoltà, Renzi da una parte, Salvini dall'altra, lei come lo vede? Ma sta bene, lavora, lavora sempre, dice con Falonieri. Ma ha ancora voglia di fare politica? Berlusconi resta il capo politico di un partito importante, è ancora un leader, ed è il leader, mi sembra, o no? Beh, ma non è più così centrale come prima. Il tempo passa per tutti, anche per noi. E a questo proposito Confalonieri dà due notizie importanti. La prima, potrebbe fare il sindaco di Milano? Chi? Berlusconi? Ma va! Un sindaco lavora 15 ore al giorno, 365 giorni l'anno. È uno stacanovista Berlusconi, ma come ho detto il tempo passa per tutti. E poi la chiusura dell'intervista. Senta, ma Berlusconi, secondo lei, non doveva rompere il patto del Nazareno con Renzi? La risposta di Confalonieri in inglese è of course, cioè ovviamente, naturalmente, la risposta di Confalonieri, che è per il patto del Nazareno. Allora, per le altre notizie della rassegna stampa, che in questo momento è in diretta anche su Periscope, salutiamo tutti coloro che ci seguono su Periscope in diretta. Vede anche un'intervista e un caso Penati per il PD. Penati è sotto processo, lo sapete, ex presidente della provincia di Milano, è accusato insieme ad altri imputati di corruzione e finanziamento illecito al partito. La notizia è che però il PD non si costituisce parte civile. Allora Giuseppe Alberto Falci di Repubblica va a intervistare l'ex tesoriere Sposetti. Per la verità Sposetti è uno molto scorbutico, abbastanza duro con i giornalisti. Infatti l'intervista su Repubblica inizia così: vuole un'intervista? Non gliela concedo. Così, subito. E poi in realtà c'è l'intervista, perché evidentemente il giornalista insiste e dice: ma Sposetti, avete salvato Penati, chissà che ne penserà Renzi. Per voi giornalisti non costituirsi come parte civile equivale a una condanna di primo grado, giusto? Ho un dossier con tutte le cose che scrivete. Sentite bene Sposetti, ho un dossier con tutte le cose che scrivete. Lo faccio per mia figlia. A ogni modo, io non voglio associare il mio nome a un processo penale. Le ripeto, preferisco non parlare. Poi però parla e alla fine dice: ma sa come si concluderà tutta la vicenda? In primo grado. E tutto finirà in prescrizione. Del resto, alcuni reati del processo sono già stati prescritti, giusto? Beh, ma i 5 Stelle parlano di incoerenza. Non rispondo ai 5 Stelle. Mi faccia ora andare che devo presentare un emendamento per eliminare il Senato. Così Sposetti su Repubblica. Vi segnalo anche che cosa? Beh, questa notizia che c'è su tutti i giornali davvero è abbastanza incredibile. Indagato il giudice che sequestra i beni ai boss mafiosi. È un'inchiesta di Caltanissetta riguardo a un giudice importante di Palermo, il magistrato Silvana Saguto, che è presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo. È colei, cioè, che amministra, che sequestra i beni ai boss mafiosi e poi li gestisce. L'accusa è questa: avrebbe avuto uno scambio di favori e consulenze dando tanto lavoro all'avvocato Gaetano Cappellano Seminara. E l'avvocato, per ricambiarla, avrebbe dato 750.000 euro di consulenze al marito del magistrato Saguto. Questa è l'accusa: abuso d'ufficio, concussione, corruzione. Su tutti i giornali, indagato il giudice che gestisce i beni confiscati alla mafia. Per carità, è un'indagine e non c'è nulla di più al momento, ma finisce già su tutti i giornali perché fa un po' sobbalzare. In chiusura, perché non c'è tempo, vi annuncio solo che il campione mondiale di Monopoli, chi è di voi non ha mai giocato a Monopoli? È un italiano, Ecco le eccellenze in Italia, dell'Italia nel mondo. No, non solo queste ovviamente, si fa per scherzare. Nicolò Falcone ha vinto, come racconta Il Giorno, a Macao in Cina, i campionati mondiali di Monopoli. Vado in prigione e spenno i rivali. Va in prigione e resta tre turni. Com'è che era? Resta tre turni? Oh, com'è quella? Vabbè, insomma, dai, che ve la ricordate, Monopoli più o meno. Eccoci qua, siamo alla carta costa. Basta, non se ne può più. Una pagina sempre del Giorno su Elisabetta, il regno più lungo, i sudditi in festa e sua maestà nel giorno in cui stabilisce record mondiale di permanenza al regno. Lavora, in quel giorno lavora. Ha lavorato ieri la regina Elisabetta. Ma chi se ne frega? Il segnale orario vi è offerto da Formaggio Gran Moravia, l'unico con l'etichetta multimediale della filiera ecosostenibile. Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan. Ciao Milan, che te portino via fuoco. Tu sei un mascalzone. Alessandro Milan, sempre breve e circonciso. Allora, cari ascoltatori, sono le 8:20 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qui. Parleremo anche del caso Bruno Vespa e state tranquilli, alle 8:45 avremo ospite il presidente della commissione Vigilanza RAI, il presidente Raffaele Fico del Movimento 5 Stelle, Roberto Fico, perdonatemi, del Movimento 5 Stelle. Parliamo di che cosa? Di immigrazione. L'Europa, avete sentito, dà risposte diverse. La Danimarca si isola, anche se sono stati riaperti i collegamenti ferroviari poco fa. Ieri invece erano stati chiusi i collegamenti, ripristinati i controlli alle frontiere. È questa la risposta giusta dell'Europa? Oppure è quella della Merkel la risposta giusta? La Merkel che dice: i profughi imparino il tedesco, però ne accoglie 500.000 all'anno. 500.000. E guardate, non facciamoci ingannare, nessuno dotato di senno pensa che anche la Merkel lo faccia perché è una buona, no? Come scriveva Angelo Mingardi due giorni fa dell'Istituto Bruno Leoni sulla Stampa, la Merkel non è che aspiri alla santità, la Merkel ha fatto un investimento. Perché guardate che al di là dei populismi, dei luoghi comuni, delle posizioni politiche, ci sono dei fatti, dei numeri incontestabili. Stiamo invecchiando, non facciamo più figli. Nel 2050 in Europa l'età media sarà di 49 anni. Pensate che la popolazione europea ultra ottantenne nel 2025 sarà il 6,3% dell'Europa. Nel 2050 sarà l'11,4% degli europei. E ancora, se volete un altro numero, nel 1975 gli under 14 nell'area dell'attuale Unione Europea erano 100 milioni, nel 2050 saranno 66 milioni. Non voglio ubriacarvi di cifre, ma per dire brutalmente, chi è che fa i lavori che permettono di continuare a pagare i nostri ricchi sistemi pensionistici? Chi farà aumentare i consumi? Chi fa bambini? Gli immigrati. E per carità, non è tutto bene, capisco che chi dice questo è un problema, si urla al rischio di Eurabia, di islamizzazione, ma perché mi verrebbe da dire, non ci siamo già cinesizzati allora? Non siamo già tutti cinesizzati? Considerazioni che vogliamo fare, che voglio porre a Cécile Kyenge, ex ministro in Italia, oggi europarlamentare del PD. Buongiorno e ben ritrovata, Kyenge. Buongiorno a tutti. Così come saluto Claudio Borghi, che è consigliere in Toscana, ma è considerato il responsabile economico della Lega. Buongiorno Borghi e ben trovato. Buongiorno a voi. Allora, Borghi, glielo chiedo brutalmente, la Merkel è una furba oppure è una statista che in maniera illuminata ha una visione e dice: oh, qua dobbiamo dare una risposta? La Merkel fa i suoi interessi, o quantomeno crede di farli, perché come spesso succede alla Germania, secondo me partono con un'intenzione, poi scatenano degli eventi che sono più grossi di loro. La storia della Germania nell'ultimo secolo più o meno è un ripetersi di questi atti, cioè partono con delle cose che talmente mi ha fatto il loro interesse che poi gli scappano di mano. E cioè cosa ci sta prevedendo? Cosa succederà secondo, mai? Secondo me il calcolo che fa la Merkel è molto razionale. E ricordiamo che è contrapposto ai nostri interessi, perché l'immigrazione è perfetta nel momento stesso in cui c'è bisogno di lavoro. Il Veneto, tanto per dare un'idea, in Italia, no, giusto per dire una regione che governiamo, perché così almeno si spazza via l'idea che noi siamo xenofobi e cose di questo tipo, nel momento stesso in cui, specialmente negli anni 90, aveva forte bisogno di manodopera, perché si andavano a cercare molto banalmente nel 96, insomma, quando c'era il fenomeno del nord-est, no, per intendersi, si andavano a cercare i lavoratori fuori dalle medie, sì, dei ragazzini, no, venivano, c'era la forte tentazione che venissero avviati al lavoro subito fuori dalle medie perché c'era bisogno di manodopera. Ecco, quello è stato un esempio di virtuoso di integrazione. In questo momento però in Europa, per molte cose, gli interessi della Germania sono contrapposti a quelli dell'Italia. A quelli nostri. No, lei dice perché lì vanno perché il lavoro c'è, in Germania lo trovano e quindi in Italia il problema è diverso. Sì. Il parametro. Vabbè, allora siamo disposti ad abbassarci le pensioni, a non reggere più il sistema pensionistico attuale? Perché facciamo il discorso adesso, ma tra 30 anni poi sarà così. Milan, però cioè io ragiono sul termine del valore aggiunto, se il valore aggiunto viene creato. Se il valore aggiunto non viene creato, perché è il parametro che noi dobbiamo guardare per confrontarci a quello della disoccupazione giovanile, perché è sì, quello che è al 44%, è quello del nuovo arrivato, non particolarmente istruito, con non un'esperienza particolare. Se il valore aggiunto è quello, cioè significa che noi in questo momento aggiungiamo semplicemente delle persone da mantenere. Sì. E non persone che ci mantengono. È un punto di vista interessante. Vorrei da Cecil Kieng un parere e le chiedo un parere su questo, cioè se appoggio o confuta la tesi di Borghi, e le chiedo anche, Cecil Kieng, lei che è nell'Europarlamento, cosa è cambiato in Europa negli ultimi 10 giorni? Sembrava la Germania, adesso di colpo accogliamo 500.000 profughi. Ce lo spiega che tipo di cambiamento c'è stato improvviso? Guarda, prima di tutto la Commissione e il Parlamento hanno sempre richiamato alle loro responsabilità i governi, quindi gli stati, che sono quelli che hanno bloccato un po' tutto per gli egoismi proprio degli stati. Allora, negli ultimi giorni, ieri, noi in plenaria abbiamo votato e ci abbiamo discusso comunque questa redistribuzione dei migranti su tutto il territorio, che addirittura prima dell'estate erano 40.000, noi adesso parliamo di 160.000, quindi si va aumentando. E non è semplicemente la foto di Aylan, sicuramente ha avuto una sua un impatto, certo. Un impatto molto forte, l'appello del Papa, tutto questo credo insieme anche a interessi come quella che di alcuni paesi, a cominciare anche proprio dalla Germania, ma che io non condanno, perché vedo il coraggio di un politico capace di vedere l'interesse anche del paese, anzi di una statista capace di vedere alle future generazioni prima di quindi secondo lei, onorevole Kieng, ci portiamo la Germania, prende braccia, lo dico brutalmente per far capire, braccia che serviranno a sfamare i tedeschi, oppure si prende, come dice Borghi, bocche da sfamare attualmente? Guarda, io sono di un altro parere, che in questo momento la Germania, la cosa che ha fatto e che mi è piaciuta, che capisce che cerca di tradurre anche quello che dicono gli economisti, rifarà il suo welfare. Cioè ci sono, non possiamo negare che ci sono dei problemi. Allora, cercare di mettere il tutto insieme confonde anche una visione lungimirante. È chiaro che ci vogliono politiche giovanili, creazione di nuovi posti, ma ciò non significa che noi non possiamo guardare a quelli che sono le nostre statistiche, che attualmente ci dicono che per pagare una pensione ci vogliono 4 persone, ma nel 2050 ce ne saranno 2. Cioè bisogna andare un attimino al giorno lo sguardo e guardare oltre. Infatti, sono i dati che io ho detto, sì. Ma è di fronte al rischio di islamizzazione dell'Europa lei che risponde, o comunque di colonizzazione? Ma io non scenderei a questo. È chiaro che questi slogan molto brevi fanno effetto, hanno un impatto, però ricordiamoci che quando si accolgono le persone, si accolgono con il loro bagaglio culturale e tutto, le culture, cioè le società monoculturali non sono mai esistite, tutti i popoli si sono fondati su una commistione, un melting pot. Esatto. E questa è la storia del mondo, cioè non lo possiamo negare, non è che noi oggi possiamo chiudere le porte perché abbiamo paura che arrivi un musulmano, non so chi, ma noi dobbiamo accettare le persone con il loro bagaglio culturale che portano e anche un valore aggiunto di quello che portano. Quindi il coraggio di un politico, anche quello di dire facciamo delle riforme, ma tenendo conto anche di quello che può essere il valore aggiunto dell'immigrazione. Io vorrei, vorrei capire da Borghi se questo è un argomento che forse per i leghisti è davvero ostico, cioè l'idea, Borghi, lei è più preoccupato per gli aspetti economici che ci ha fatto capire, cioè gli interessi tedeschi sono contrapposti ai nostri interessi, oppure per gli aspetti culturali anche che fanno molta breccia nella Lega, no? Rischio di invasione, questi che appaiono un pochino come slogan a volte, Borghi? Io sono preoccupato per gli aspetti sociali, perché storicamente, sempre se vogliamo parlare nel mondo, è vero che ci sono state le commissioni di culture, ma storicamente l'apertura sconsiderata delle porte e dei confini ha portato al disastro, dai tempi dell'impero romano in giù. La prima azione umanitaria, stile Merkel, fatta in questo senso, la fece l'imperatore Valente, guardate un po', all'epoca non c'era l'ISIS, c'erano gli Unni. Ciononostante, questo genio, no, aveva pensato di poter, facendo probabilmente dei discorsi e dei ragionamenti simili a quelli che sento, di poter trarre dei vantaggi facendo entrare ma, i costi. Ma che facciamo? No? Ognuno a casa sua nel mondo globalizzato? Borghi, ormai sembra quasi veramente di arginare, no, di arginare ognuno un mare con due mani da tenere lì davanti. Ognuno a casa sua, no, ma le frontiere sono sacre. E soprattutto accettare il bagaglio culturale, anche no, vale a dire chi viene deve accettare le regole. Infatti la Merkel lo dice, imparino il tedesco. Perché, diciamo. Perché non si capisce per che motivo deve essere sempre tutto unilaterale, non è che se io vado in Arabia, che per inciso di immigrati non ne accetta uno, allora loro devono accettare il mio di bagaglio culturale, io devo rispettare il loro. Ma il fatto è questo, però attenzione, perché quando si dà segnale, come si sta dando e come si è dato, che le porte sono aperte, arrivano tutti. Poi il rischio è terribile di invasione. L'immigrazione è una cosa, l'invasione è un'altra. L'immigrazione c'è quando c'è lavoro, l'invasione quando non c'è lavoro, e arrivano ondate chiamate quindi, da un segnale. Quindi preciso. Lei ripristinerebbe Schengen, Borghi, per esempio? Bene, ci sono solo due possibilità per un governante. Mi rivolgo alla signora Chieng, che in questo momento è del partito di governo e quindi ha possibilità di fare queste cose. O si fa come diciamo noi, vale a dire dare un segnale forte, preciso, che di qui non si passa. E allora a quel punto secondo me la gente non parte e andrà direttamente in Germania, se per caso vogliono, che ci pensi la Merkel a organizzare un ponte aereo per gli immigrati, per gli immigrati che vogliono. Schengen. Io dico che in tanti in Europa in questo momento, pur essendo in Europa, stanno dando segnali che non si passa. Sì. Allora da quel punto di vista lì, da quel punto dall'Ungheria, Danimarca, l'Inghilterra ci sta pensando molto bene, così questo tipo. Comunque dal mio punto di vista tutti in Europa dovrebbero dare il segnale che non si passa, che i metodi sono differenti, allora la gente non parte. E non muore. Vediamo, perché attenzione, però la seconda possibilità è quella: se invece questa cosa è considerata da xenofobi cattivi e brutti, allora invece si dice si passa, si abbia la decenza, si abbia la faccia di mandare i traghetti, perché se no altrimenti quelli che muoiono nel Mediterraneo così possono tutti nella coscienza di chi governa, non di chi è l'opposizione. Ma è chiaro, però andare con i traghetti in Libia non è facile, però onorevole Chieng, non è facilissimo, ho il suo punto di vista, ma io credo che ho il diritto di poter replicare anche per poter dire che non è unilaterale, cioè poter dire di accettare non vuol dire unilaterale. Le persone che arrivano devono accettare le regole che ci sono. Un reato è un reato, deve essere punito, esistono le leggi che devono essere rispettati, ma in questo momento la questione non è quella di dire rimanete a casa vostra, ma la questione è quella di poter guardare anche di come intervenire sulle cause profonde dell'immigrazione, che non è semplicemente poter dire rimanete lì, ma vuol dire investire in politiche di sviluppo, di cooperazione internazionale, cambiare tipo di partenariato. Allora, quando sento questi discorsi che mi sembrano molto populisti, mi sembra veramente molto triste, perché È chiaro che noi in questo momento abbiamo affrontato il tema dell'emergenza, ma fianco a questo, nell'agenda c'è la gestione di tutti i giorni. Punti, esatto, abbiamo sensibilizzato l'ONU, abbiamo presentato una risoluzione che parla addirittura di corridoi umanitari, ciò di cui ho sentito adesso. Però per concludere, perché io devo andare in pubblicità, so che anche lei ci deve lasciare, le chiedo questo direttamente: la Danimarca che chiude le frontiere, l'Ungheria che fa altrettanto e altri paesi, Gran Bretagna su tutti, che hanno già detto di voler respingere il piano che voi ieri avete approvato dalla Commissione Europea, che dice a questi paesi? Ma io credo che devono capire quali sono i valori che ci tengono uniti all'interno dell'Europa e l'Europa deve essere anche decisa, molto forte, a poter dire chi sta dentro deve rispettare questi valori, altrimenti credo che la via è semplice, si può anche stare fuori dall'Unione, ma la responsabilità, la solidarietà fanno parte dei nostri valori e devono essere rispettati e credo che questa deve essere molto chiaro. È molto chiaro. Allora, io intanto vi ringrazio, Borghi, io per concludere, ma sai che io ho lanciato questa provocazione a luglio dicendo quasi quasi sarebbe il caso di dare le chiavi alla Merkel se ci fosse una porta ideale dell'Italia. Io le consegnerei le chiavi alla Merkel, magari mi sistema un po' tutto. Borghi. Io la consegnerei secondo me. Hanno insultato di tutti, Bagnai, che è il vostro Milan, anche economista, ha detto consegna le chiavi di casa tua, non di casa mia. Ma è vero, ma attenzione, la cosa importante, perché io le consegnerei se governasse solo l'Italia. Ottimo, dice un bravo governante. Ma questo era il mio senso. Questo era il senso, cioè dico, italianizziamo la Merkel, ma il problema siamo noi italiani. Non è che un uomo arriva, noi abbiamo questa cosa del fascino dell'uomo solo al comando, ma il problema poi per cui gli italiani poi si infatuano di Berlusconi, si infatuano di Monti, si infatuano di Letta un po' meno, adesso si infatuano di Renzi e via, e vanno avanti così, si infatuano di Prodi e si infatuano di D'Alema un po' meno, va bene. Vabbè, dai, vi ringrazio Cécile Kyenge per essere stata con noi, europarlamentare del PD, e Claudio Borghi, che è responsabile del Dipartimento Economia della Lega e consigliere della Lega nella regione Toscana. Dopo la pubblicità ci sono le vostre chiamate, se volete 800 24 00 24, parliamo ancora di questo tema, ma parleremo con il presidente della commissione vigilanza Rai Fico della questione, delle polemiche enormi che ci sono state per la vicenda Bruno Vespa, che ha invitato i parenti dei Casa Monica in Rai. Allora, tante reazioni, tante telefonate, tanti messaggi. Giustamente Manuela, che ha tre figlie, ci scrive: ma perché in Italia non si aiuta chi ha o chi fa i figli? Questa è una cosa sacrosanta, cara Manuela, è vero. Non si fanno figli perché i giovani hanno dei lavori spesso precari o comunque hanno difficoltà, stipendi bassi all'inizio, non possono avere un mutuo, non possono sposarsi, non possono comunque fare un figlio anche senza sposarsi. E questa è la verità. E chi ha tanti figli? Ci sono politiche di welfare che sostengono chi ha tanti figli? C'è il quoziente familiare? Ma se ne parla, però se ne parla e se ne dibatte tantissimo, tantissimo. Politiche di sostegno della famiglia. Ma questi sono decenni di non politica da questo punto di vista che hanno prodotto questa situazione. Adesso non è che la demografia si cambia in 4-4-8, uno fa una legge domani e dopodomani si iniziano a fare figli come conigli. Nel 2050 sono i dati che ho dato io, e cioè la popolazione sarà sempre più vecchia, e chi pagherà le nostre pensioni, i nostri figli che magari non avranno neanche un lavoro? Dai, su. Giacomo da Bologna, buongiorno. Buongiorno, due punti riguardo alla discussione prima tra la Kyenge e Borghi. Il problema della Kyenge e di chi fa, di chi combatte per una sorta di politica umanitaria è la retorica e il pragmatismo. Ovvero, se una persona dice noi dobbiamo accoglierli con il loro bagaglio culturale perché questo è una società multiculturale, questo significa società multiculturale. Ma perché ha detto perché tutte le società del mondo sono state multiculturali? Guardi gli Stati Uniti, più multiculturali. Sì, però io sono stato un anno e mezzo a Londra come immigrato regolare e io non ho portato tutto quanto il mio bagaglio italiano, perché sennò non sarei stato accettato. Se si vuole portare avanti una politica umanitaria corretta, bisogna anche saper fare politica. Il pragmatismo di Borghi è logico che fa più presa. E anche la battuta e provocazione generazione che dice allora se vogliamo fare le cose fatte bene andiamo a le prendere noi, sì, è chiaro che fa più presa come pragmatismo, insomma, è più logico, è un paradosso, di dire... è un paradosso, è chiaro. Però, lei al di là di tutto da che parte sta, adesso glielo dico brutalmente, cioè io sto dalla parte degli esseri umani, è chiaro che dobbiamo fare qualche cosa, però non possiamo farlo continuando a portare avanti una retorica che per forza di cose poi mette contro una madre con tre figli che dice e i miei figli chi ci pensa? Guardi che però la questione delle mancanze di politiche di sostegno della famiglia è un tema che non è per nulla qualunquista, non l'ha detto lei qualunquista, ma traduco io quello che ci dice Emanuela, cioè il fatto che per anni non si è sostenuto chi faceva figli, non si è incentivato con politiche di welfare chi faceva i figli, questa è la verità. Va bene, comunque affronteremo, ci sono anche tante altre telefonate, però voglio salutare il presidente della commissione vigilanza RAI del Movimento 5 Stelle, Roberto Fico. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Allora, le devo chiedere un attimo di pazienza, facciamo un minuto il traffico e poi sono da lei, perché c'è questa polemica che divampa anche sui giornali sulla ospitata dei Casa Monica a Porta da Bruno Vespa. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta... Siamo qui allora, 8 e 45 minuti con Roberto Fico, presidente della commissione vigilanza RAI. Allora, il caso Bruno Vespa, è un caso secondo lei il caso Bruno Vespa, Fico? Sicuramente è un modo, secondo me, che no, assolutamente non va bene di utilizzare il servizio pubblico, quindi sì, è un caso, non c'è dubbio. È un caso. Le faccio sentire alcuni stralci delle trasmissioni, che è diventata abbastanza epocale ormai. Celebrare suo padre con la musica del Padrino significava identificarlo in un personaggio potentissimo ma negativo. Non è vero. Non è vero, no. Perché? Quello è Padrino, è un film. Papà mio lo piaceva quel film e lo piaceva anche la musica. E noi, quando lui è defunto, l'abbiamo fatto come lui ha desiderato. Ma tralasciamo la sintassi, lo piaceva quel film. Però, Fico, qual è il caso Vespa? Cioè, non può invitare i Casa Monica, peraltro questi due parenti che dice Vespa sono incensurati. Certo, fanno parte di una famiglia che qualche reato sicuramente e vari reati li ha commessi. Cioè, qual è il problema? Non vanno invitati i Casa Monica? Allora, il punto secondo me è questo. I giornalisti possono intervistare, secondo me, chi vogliono e non devono avere nessun tipo di censura in questo. Però, siccome le persone che vengono intervistate in questo caso appartengono alla famiglia mafiosa dei Casa Monica, che tanto dolore e problemi hanno causato alla città di Roma, vanno intervistati in un modo serio, non salottiero, non da salotto, non un po' ridendo, un po' scherzando, un po' accusando. Secondo me è il modo che non va bene, perché in questo modo che cosa facciamo? Cerchiamo solamente di aumentare share, di fare ascolti, sì, ma perdiamo poi il senso del problema grave che Roma stava vivendo. Cioè, ci vuole un'intervista incalzante, lei voleva che dicendo voi fate questo, non fate questo. Non è solo un'intervista incalzante, cioè porta a porta, nella modalità in cui questa trasmissione è fatta, è creata, non vedo possibile in quel format invitare un certo tipo di persone e fare un certo tipo di discorso. Cioè, quindi il tipo di trasmissione fare... che non secondo me è un po' salottiera, un po' troppo volemo se bene. Ieri ho sentito un pezzo dell'assessore alla legalità di Roma e che giustamente diceva che esce fuori un'idea di una mafia patinata, una mafia un po' da film, che sì, un po' trash, che magari fa queste cose un po' trash, però sì, però le chiedo questo, Fico, mi scusi, Ignazio Marino oggi sulla stampa rilascia un'intervista e dice ho avuto un lungo colloquio col presidente Fico e la commissione di vigilanza e spero che prendano provvedimenti, ci aiuti? Intanto è vero, avete parlato? Sì, Marino ieri mi ha chiamato Mi dica che poteri ha la commissione di vigilanza e che cosa pensa lei di fare. Allora, i poteri della Convenzione di Vigilanza, vorrei anche ricordare a tutti gli ascoltatori, non sono mai preventivi perché non sono censori, quindi non si sarebbe potuto intervenire prima, perché gli unici che possono intervenire, che sono i responsabili, sono il direttore di Rai 1 e il direttore generale. Certo, il dirigente della Rai. Però dopo che si può fare? Un'azienda. Dopo possiamo iniziare il dibattito, che infatti è iniziato, io ho fatto personalmente un'interrogazione ai vertici della RAI, sia a Campo dell'Orto che al Consiglio di Amministrazione, che dovranno assolutamente rispondermi, e in questo modo avremo una risposta pubblica, se loro saranno a conoscenza, se hanno autorizzato, perché si è riusciti a fare la trasmissione con i Casa Monica in quel modo. Ma ci sono anche poteri poi eventualmente di sospensione, sanzionatori? No, questo, la vigilanza, questo potere non ce l'ha, e poteri più sanzionatori nei confronti della RAI, ma della persona singola, li ha l'Agicom. L'Agicom. Ma secondo lei meriterebbe una sanzione Bruno Vespa? Cioè, faccia un po', si metta nel CDA della RAI in questo momento, o presidente della RAI, meriterebbe? Però in questo momento io dico che per me non è servizio pubblico. Personalmente io giudico la trasmissione, una trasmissione in questo momento con in quel modo, non di servizio pubblico. E allora noi dobbiamo sempre ricordarci che anche Porta a Porta e il contratto di Vespa è pagato dai cittadini tramite il canone, è finanziato dai cittadini, e quindi se non afferisce più al servizio pubblico, alla missione di servizio pubblico, allora si può andare a lavorare in un'altra parte e fare la TV commerciale. Però Presidente Fico, lei ha visto, certo, ha visto anche il clima politico. Qualcuno dice che Renzi varie volte ha detto questi talk show non mi piacciono, poi dopo ci va anche in alcuni talk show, va anche Porta a Porta peraltro, questo modo di fare talk show non va bene, dobbiamo cambiare un po' la TV. Anche voi del Movimento 5 Stelle magari per altri motivi sicuramente l'avete criticato, non c'è questo rischio di vedere con una sorta di potere politico censorio nei confronti della libertà giornalistica? No, questo non deve mai avvenire. Già l'ho dichiarato ieri, la RAI deve essere un'azienda totalmente indipendente da qualsiasi tipo di potere, perché sennò non potrebbe espletare la sua vera funzione, che è quella di servizio pubblico. Il servizio pubblico è intrinsecamente indipendente, sennò non ha senso di esistere, e purtroppo sappiamo che questo negli anni non è avvenuto. Il potere politico ha avuto molta influenza, i partiti hanno avuto l'influenza, hanno messo i loro uomini in RAI. Allora è questo atteggiamento, questa cultura che deve cambiare radicalmente. Dalle reazioni politiche che ci sono state ieri anche a questa puntata di Vespa, che non è la prima volta che invita persone che hanno problemi con la giustizia, cioè non, che peraltro queste due no, ma appartengono a una famiglia che sì, ne ha di problemi, cioè è questo che non si capisce bene della portata delle critiche, perché questa volta molto spesso le critiche ci sono state, secondo me le critiche vanno bene, il punto vero è quando tu vai, secondo me, un po' a minare la funzione del servizio pubblico, e non è certo solamente in questo caso la trasmissione di Vespa, ma spesso non viene rispettata la funzione di servizio pubblico, che può essere culturale, pedagogica, di ampio respiro, educativa nel senso sano del termine. E allora noi dobbiamo riuscire a fare una televisione di questo tipo, una radio di questo tipo pubblica, perché sennò non ha senso che i cittadini pagano il caso. Ma lei Fico la vede Porta a Porta? Cioè lo vede di consueto, e l'ha vista questa puntata? Sì, l'ho vista, chiaramente l'ho vista. No, perché sa perché glielo chiedo? Perché Ignazio Marino, sempre in questa intervista in cui la cita, dice sulla stampa testuale: sì, io Porta a Porta non la vedo, e come cattolico penso che guardarla sia peccato, e dopo bisognerebbe confessarsi. Siamo a questo livello, parole del sindaco di Roma. Questo Marino a me non l'ha detto. No, l'ha detta la stampa. Non l'ha detto a me, con Marino abbiamo avuto una conversazione di 2 minuti chiedendo la vigilanza se era preoccupata per questo. Ho detto che sicuramente io come presidente ero preoccupato per questo utilizzo del servizio pubblico. Tutto qui. Quindi lasciamo stare. Le dichiarazioni di Marino. Lasciamo stare essere peccato. Fare peccato. No, sì, chiaro, è per quello che gli ho detto sempre. Cioè, si può vedere Porta a Porta. Non si fa peccato a vedere Porta a Porta. Ognuno può vedere ciò che vuole. Il peccato è che il servizio pubblico deve essere di alta qualità, e spesso non lo è, questo è un peccato. Mi dica in conclusione come finirà sta vicenda, perché se convocate i vertici della RAI che vi diranno che è tutto secondo loro, sapevano, non sapevano, vabbè, diranno quello che diranno, e poi finisce tutto a tarare luce vino? Ma a breve si riunirà l'ufficio di presidenza e noi andremo avanti cercando di capire tutte le responsabilità, soprattutto di comprendere chi ha autorizzato, se ha avuto una libertà totale editoriale Vespa oppure c'è stata un'autorizzazione magari da parte del direttore di Rai 1 Leone, quindi dobbiamo vedere, magari convocheremo Leone, che sarà già anche una richiesta del capo. Ho capito, ma se vi dice sì, l'ha autorizzato, che succede poi? È chiaro, noi non è che abbiamo dei poteri sanzionatori, non è che possiamo rimuovere le persone, però possiamo andare avanti fino in fondo per capire tutto ciò che è successo, poi le responsabilità le dovrà prendere sicuramente il DG. Per concludere, quando ci sarà il canone in bolletta? Mai. Il pagamento del canone in bolletta? Mai, secondo me. Ma in questo momento non è all'ordine del giorno, né nel governo lo vedo, né nel Parlamento. La riforma del canone, in ogni caso, è una riforma parlamentare che va discussa in Parlamento. Ma sarebbe auspicabile in bolletta, secondo lei? Ma sarebbe per me in questo momento auspicabile che il servizio pubblico cambi proprio passo, perché deve affrontare delle sfide davvero importanti e se vuole resistere e esistere in nome dei cittadini deve totalmente cambiare. Questa totalmente. È la mia missione. Intanto io la ringrazio, Roberto Fico, presidente della Commissione Vigilanza RAI del Movimento 5 Stelle, grazie per essere stato con noi. Ma dopo il giornale radio abbiamo finito, ci sarà anche Lirio Abate, lo chiameremo per capire chi sono allora questi Casa Monica di cui si è discusso. 800 24 00 24, state con noi dopo il giornale radio. Un saluto da Maurizio Melis. L'Expo è un campo di prova per molte delle tecnologie che ricadono nell'alveo della cosiddetta Smart City, la città intelligente. Da questo punto di vista, l'esposizione universale ha goduto di un'opportunità più unica che rara, quella di poter progettare da zero tutte le infrastrutture di una piccola città, collegandole a un solo centro di comando e controllo che accentra tutte le informazioni. Questa capacità di analisi ha permesso di migliorare quasi in tempo reale la gestione degli accessi al sito da parte del pubblico, di adattare le politiche di vendita dei biglietti e anche di risolvere un furto in poche ore. Intanto i 100 totem informativi sparpagliati per l'Expo hanno totalizzato oltre 2 milioni di utilizzi, quasi sempre da parte di gruppi impegnati a prendere una decisione collettiva, una dimensione che i dispositivi come smartphone e tablet strettamente individuali non sono in grado di intercettare. Ne parliamo questa sera a Smart City qui su Radio 24 alle 20.50. Buona giornata. Il segnale orario vi è offerto da Formaggio Gran Moravia, capolavoro della filiera ecosostenibile. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alberto Orioli. Luglio, secondo la Confcommercio, sarà un mese da incorniciare quanto a consumi degli italiani. L'indicatore messo a punto dall'Associazione dei Commercianti infatti fa registrare un aumento dello 0,4% sul mese precedente e soprattutto un più 2,1% tendenziale, che è il valore più alto dal 2010. Per Confcommercio questo significa addirittura che il PIL potrebbe chiudere l'anno con un più 1,1% e diventare dell'1,4% l'anno successivo. Sono dati indubbiamente ottimistici, visto che il prodotto interno lordo nelle stime del governo dovrebbe crescere dello 0,7% quest'anno, anche se già si sa che comunque verrà rivisto al rialzo. L'analisi dei dati forniti ieri dimostra che gli italiani stanno recuperando gli acquisti sui beni durevoli, soprattutto le auto, che come è noto sono oggetto di un vero boom di vendite. E non c'è ancora lo stesso trend sostenuto sui beni di largo consumo, visto che ad esempio per alimentari, bevande e tabacchi proprio luglio segna un calo dello 0,2%. La fiducia ai consumatori insomma si va consolidando, anche se non si può ancora dire che si sia imboccata una robusta via della ripresa. Sono segnali, come ne stanno venendo da un po' di mesi a questa parte, proprio sul PIL, sulla produzione industriale, sull'export, sui prestiti alle famiglie, sui mutui e anche sull'occupazione, per quanto piccoli. Qualcosa in effetti si sta scongelando. Per arrivare alla svolta vera serve però un altro colpo di acceleratore sulle riforme, a cominciare da un deciso taglio fiscale sul lavoro e impresa e da un massiccio piano di investimenti, operazione che potrebbe venir compromessa dalla scelta fatta dal governo, o meglio annunciata, di dare la priorità alla riduzione delle tasse sulla casa. È un momento delicato per l'economia e sbagliare le priorità dell'agenda potrebbe mettere il piombo sulle ali di una ripresa che ancora sta solo rullando sulla pista. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su Radio 24.it e rds.it. Mattino. E allora, cari ascoltatori, 9-8 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Andiamo in diretta fino alle 9.30 per tutto il mese di settembre. Abbiamo parlato e stiamo parlando della vicenda Bruno Vespa, Porta a Porta, l'invito a alcuni parenti del Casa Monica che è morto in agosto e i cui funerali hanno fatto discutere in tutto il mondo. E abbiamo avuto il presidente della commissione vigilanza Rai, Roberto Fico, che ha detto: quello non è servizio pubblico, legittimo intervistare chiunque, ma il contesto, quel clima salottiero un po' che c'è da Bruno Vespa, che ha dato l'immagine di una famiglia, come dire, sì, magari un po' trash, un po' sopra le righe, però una famiglia così che fa solo dei funerali un po' strampalati. In realtà i Casa Monica sono ben altro. Lo voglio chiedere a Lirio Abate, giornalista dell'Espresso. Ciao Lirio e bentrovato. Buongiorno. Lirio Abate ha scritto insieme a Marco Lillo I Re di Roma, edito da Chiare Lettere. Chi sono i Casa Monica? Ha detto che ovviamente è una famiglia molto vasta, immagino. Sì, sono centinaia di persone che si trovano, diciamo, nella zona di Roma Est, per intenderci accanto a Cinecittà. Diciamo, è un quartiere dove loro si sono insediati tantissimi anni fa, già tra gli anni 70 e gli anni 80, e gestiscono di fatto l'usura a Roma, ma anche in quella zona lo spaccio della droga e poi l'estorsione. È di fatto un clan che organizza anche spedizioni punitive. Questo che vuol dire? Vuol dire che giornalisti che ne hanno scritto, e ne parlo anche con te, hanno subito minacce magari verbali, se non di più? Sì, qualcuno che è andato lì, come la collega Fagnani, a fare un servizio per Ballarò, ma ancora prima per altre TV, ha subito delle minacce da parte di Casa Monica, apertamente, perché non hanno paura, diciamo, di rivolgersi contro i cronisti. Lo fanno attraverso i social network, lo fanno davanti alle telecamere, perché siccome questi Casa Monica sono sempre stati arrestati, poi scarcerati e poi a volte assolti, ma a volte anche con piccole pene condannate, poi ritornano in libertà, si è diffusa questo senso di impunità, ma anche di potenza da parte di questo clan, per cui le loro vittime, che sono purtroppo gente, che ce ne sono tantissime, che sono costrette a chiedere prestiti a usura dai Casa Monica, oppure subiscono le estorsioni e si piegano davanti a loro, perché non solo li vedono potenti ma anche violenti. Sì. Molti di loro hanno denunciato queste cose e lo hanno fatto dopo aver subito aggressioni fisiche. Io vorrei capire il tuo parere sulla trasmissione di Bruno Vespa, perché da questo punto di vista io sono dell'idea, per carità, si può sempre puntare il dito, si può criticare tutti, però il punto, quando Vespa si difende, tra l'altro lo vogliamo anche sentire così, dicendo non posso intervistare persone che hanno eventualmente problemi con la giustizia, detto che questi due erano incensurati, ma sentiamolo Bruno Vespa. Porta a Porta deve occuparsene? Sì, come doveva occuparsene? Imitando due persone incensurate e contraddicendo tutte le tesi della famiglia, che è una cosa molto più ampia di Vittorio Casamonica, la famiglia Casamonica, con due signori giornalisti, il direttore del Messaggero e il capo dei servizi giudiziari del Corriere della Sera, e con me stesso, che abbiamo contestato punto su punto. Più di questo, secondo me, il servizio pubblico, meno di questo non doveva fare, più di questo non poteva fare. Questo è Bruno Vespa. Lirio Abate, sei dello stesso avviso? No, sono dell'avviso del fatto che il giornalismo si fa intervistando tutti, cioè anche se dovesse arrivare Provenzano, Rino, esatto. Io ho fatto, denaro, prima, ho fatto prima l'esempio, fosse ancora in vita Osama Bin Laden, che è uno non, intervista, cioè, non intervista Bin Laden, c'è bisogno di un contraddittorio per intervistare Bin Laden, uno gli fa le domande, quello è il contraddittorio, le domande, no? Sì, soltanto che in questo caso, proprio perché diciamo, quando era in vita Bin Laden sapevamo di che cosa era accusato, che cosa era, così come Rina, che cosa fa, e su quello possiamo mettere, fare delle domande pungenti in un certo modo, senza nessun risolino, senza nessuna battutina, si fa una cosa seria e si fa raccontare la vita o comunque la versione a questi criminali. Qui ci troviamo di fronte a un clan che, appunto, come dice lo stesso Vespa, ha portato in studio due persone che sono incensurate. Bene, il clan, infatti, molte di queste persone che vanno davanti alla direzione risultano incensurate perché mai perseguite, perché non perché ci hanno tentato, ma non le hanno mai perseguite come organizzazioni criminali organizzate. In passato, prima che arrivasse il procuratore Pignatone, ci sono stati 170 arresti di Casa Monica, ci sono stati 170 processi, ognuno singolarmente, nel senso che le loro posizioni sono state parcellizzate, non racchiuse come in un'unica organizzazione, non sono state viste, anche investigativamente parlando, come un'associazione. E qualcosa, non sono state mai accusate. Qualcosa cambierà, ti chiedo, perché oggi il prefetto Gabrielli, intervistato da Carlo Bonini su Repubblica, dice che i Casa Monica si sono infilati in un guaio e hanno capito quale errore hanno fatto. Mettiamola così, sentite le parole del prefetto, mettiamola così, pagheranno a breve il giusto fio di quello che hanno combinato. Questo dice il prefetto Gabriele, dice non è vendetta, ma bisogna capire che a un atto corrisponde una conseguenza. Cambierà qualcosa ora? Beh, io penso che ci sarà più attenzione sui Casa Monica, ci sarà un'organizzazione diversa di indagare sui Casa Monica, vedendoli più come un'associazione. Attenzione, fino ad oggi Massimo Carminati e Buzzi non erano manco stati arrestati per mafia, oggi sono accusati di mafia. Fino ad oggi Vespa avrebbe potuto dire ma Carminati è uno che è accusato soltanto di furto, non è un mafioso, perché non è condannato per mafia. Certo, ora gli stanno contestando l'associazione mafiosa e la mafia. Il problema è perché ora, soltanto adesso, ti rendi conto del fatto che c'è un'organizzazione criminale organizzata a Roma come la Mafia Capitale, come sono i Casa Monica, come sono i Tenese, come sono i Fasciani, eccetera, eccetera. Il problema è l'organizzazione della trasmissione, così come è stata fatta, perché sì, contraddittorio, ma il problema è di far vedere i Casa Monica. Di metterli in un salotto, dagli questa aspettativa, perché voi dovete immaginare, proprio per i reati che loro, di cui loro sono accusati, il clan, che sono appunto l'usura, le estorsioni, eccetera, in cui la gente, sono centinaia le vittime che stanno sul territorio, hanno paura, che accendono la TV, vanno su Rai 1, vedono Vespa e vedono queste persone sedute così in questo salotto, che come ridono, se fossero legittimate a parlare con l'interlocutore ufficiale. E questa cosa gli darà più chance, purtroppo, ai Casa Monica. Ma sicuramente, noi siamo potenti, allora, non su solo questo, abbiamo fatto questa cosa, visto abbiamo paure e continueranno a pagare, non denunciare. Visto che l'immagine in TV spesso è tutto, ed è molto, e conta molto, Bruno Vespa questo lo sa benissimo, questo certamente è un'immagine che è passata. Vorrei sentire Fabio da Reggio Emilia, buongiorno, per concludere questo argomento. Buongiorno Fabio. Milan, e buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori. Sì. Guardi, io vorrei subito sgombrare il campo, non sono un fan particolare di Vespa. E vabbè, ma non bisogna essere, è uno spettatore. E devo essere onesto, non ho anche visto la trasmissione, ma ho sentito tutte le polemiche della mattina. Però la mia opinione è che domandarsi effettivamente cos'è servizio pubblico, e penso anche che servizio pubblico sia fare un giornalismo libero, libero anche di intervistare personaggi scomodi, è chiaro, magari con in una modalità anche molto serrata, forse non da salotto, quello posso essere d'accordo, ma però io quindi è libero di farlo, insomma, libero di farlo. Va bene Fabio, sentirei Dora da Catanzaro, buongiorno Dora. Buongiorno a lei, complimenti per la trasmissione e per come la conduce. Per quanto riguarda il salotto di Vespa, è un salotto solo per privilegiati, e questo lo sappiamo. Beh, in che senso? È un giocattolo in mano a Vespa, che io personalmente enucleerei, chiuderei la porta, chiuderei capito? Ogni a parte che lei dovrebbe chiudere la radio riguarda. In questo momento perché si sente un'eco fastidiosa. Ma io gliela chiudo molto volentieri, tanto la sento in diretta. Però la questione è, Dora, ma perché Vespa fa una trasmissione, è responsabile di una trasmissione, come io sono responsabile della trasmissione che faccio qui a radio, più modestamente, come ognuno è responsabile della trasmissione che conduce, risponde con gli ascolti e con un'azienda che è sopra di lui, con i dirigenti, che gli dice fai bene, fai male, punto. Cioè, ok, ma fai bene, fai male è un discorso che va interpretato in una maniera diversa. Io non mischierei la sua condizione con quella di Vespa, perché è nettamente diversa. Vabbè, ma adesso, prima di tutto lei, con grande rispetto, no, ma non deve fare elogi, non mi interessa. No, lo faccio a Radio 24, ok? Diciamo che lo faccio a Radio 24. Bene. Ma mi dica qual è il problema di Bruno Vespa, perché lei cosa vuole? Una censura? Lo vuole cacciare? Lo vorrebbe... Certo, ma certo. Perché? Ma questa è censura. Allora, io faccio un plauso ai Casa Monica, perché diventano delle star, sono riusciti a ottenere il loro scopo, perché la televisione è potentissima, entra in tutte le case, lei lo sa meglio di me. È chiaro. E la televisione non è verità, però lei ha visto Quinto Potere di recente? No. L'ho visto qualche tempo fa in verità. Però, insomma, Vespa ha fatto il suo tempo. Prima di tutto è un insulto all'opinione pubblica. All'opinione pubblica. Questo è il suo parere molto duro. No, vabbè. No, ma Dora, la ringrazio. Non è che la voglio sfumare, sennò poi dopo cambia idea anche su Radio 24. Ma devo cambiare tema, ringraziando anche Lirio Abbate. Ha detto il sindaco di Roma, Ignazio Marino, testuale. Io non ci volevo credere, ma ha detto sulla stampa che vedere porta a porta è peccato per un cattolico e bisognerebbe confessarsi dopo averla vista. Ignazio Marino, sindaco di Roma. Ma io voglio salutare un altro sindaco insieme a un grande amico nostro di Radio 24. Il sindaco è Fabrizio Derriard, sindaco di Courmayeur. Buongiorno e benvenuto, sindaco. Buongiorno a voi. E così come saluto il nostro amico Simone Moro, alpinista di Radio 24. Diciamo così. Simone, buongiorno, ciao. Buongiorno Alessandro. Perché che voi non lo sapete, magari non avete letto, ma sta succedendo un casino. Cioè c'è una contestazione sulle tra la Francia e l'Italia sulle frontiere. Voi dite, ma che frontiere, 20 miglia? No, sul Monte Bianco. Sindaco di Courmayeur, ci spieghi in sintesi che succede. Ci stanno facendo la guerra, tra virgolette, le guide alpine francesi, sbarrando la strada agli italiani sul Monte Bianco? No, non parlerei assolutamente di guerra. Sicuramente c'è un problema di confine in corrispondenza appunto della cima del Monte Bianco che si trascina da tantissimo tempo, che crea poi di fatto dei problemi ai sindaci, agli amministratori che devono gestire il territorio. Sembra un po' anacronistico parlare di confini, perché condivido assolutamente il fatto, e le montagne ci hanno sempre uniti, tant'è che c'è una amicizia di lunga durata con Chamonix. È evidente che però i confini esistono e comunque hanno il loro valore per quanto riguarda la gestione di un comune e dei conseguenti atti che devono essere... Il dato di fatto che i francesi hanno messo delle transenne che bloccano l'accesso al ghiacciaio del gigante, perché dicono, sulla vetta, vicino alla vetta del Monte Bianco, dicono qui è territorio francese, quindi anche i turisti, gli alpinisti, non si può passare. Poi una transenna di un metro, uno la scavalca e la supera, ma come mai sono arrivati a tanto? Allora, il problema sicuramente che è comune ai due sindaci è un problema di gestire delle persone che possono avventurarsi sul ghiacciaio senza essere equipaggiati. Dunque questo è un grandissimo problema che va gestito. La montagna rimane pur sempre uno spazio libero, va gestito però senza ovviamente impedire l'accesso a chi ha le capacità per frequentare la montagna e ambisce alle proprie cime e alle proprie scalate. Guardi, ieri su Libero, ma vorrei chiedere, coinvolge anche Simone Moro, la ponevano così: in realtà sono invidiosi i francesi della funivia, no? La funivia che noi abbiamo fatto, la Skyway che ci porta lì, e loro gli erode, per dirla non alla francese, ma Simone Moro gli erode questo forse. Ma che è sta roba dei confini? No, tu che sei un uomo di mondo che giri. No, non penso proprio. Seppur bisogna dire che la nostra funivia rispetto a quella che hanno loro, il loro è un catafalco, eccola, il nostro è arrivato però, il diplomatico, no, Simone Moro, a mettere a posto tutti i rapporti con i francesi. Io prendo regolarmente sia quella di funivia che la nostra, ma solo per una questione di tempi di realizzazione, cioè epoche. È ovvio che qualcosa realizzato oggi è diverso realizzato 30 o 40 anni fa, da un punto di vista tecnologico, ma il problema vero, cioè i problemi adesso menzionati esistono, sono innegabili, sono costantemente su quel ghiacciaio, ci sono gli sprovveduti che vanno con l'infradito. E questo l'abbiamo detto tante volte, non solo sul Monte Bianco. È di lunga data, io non lo chiamo il problema, perché è un non problema per noi e per chi rispetta gli accordi, ma il problema dei francesi è che sono su questa questione palesemente in forte malafede, perché ci sono dei documenti tra l'altro firmati da entrambi, che hanno un'evoluzione, hanno una storia chiara, ci sono le copie di questi trattati. Ma non ti sembra anche una vicenda surreale, poi ai confini della realtà, ci scrive un ascoltatore, Andrea da Bologna. Certo, ma infatti questo è solo uno specchio di come la credibilità, la leadership, i comportamenti di un paese rispetto a un altro, perché noi ovviamente, siccome la becca del Monte Bianco, i francesi da sempre continuano a dire è tutta nostra, nonostante fior di trattati in duplice copia con tutte le firme che loro dicono di aver perso e noi chissà perché invece non le abbiamo, gli facciamo vedere anche le lettere, gli scambi di lettere. Però di loro insistono e c'hanno i catafalchi, però, e c'hanno i catafalchi, allora, e noi le funivie che arrivano su meglio. No, si sono presi la vetta del Monte Bianco e vabbè, uno dice vabbè, cosa te ne frega, ok, si fa male uno sulla vetta del Monte Bianco, allora devi chiamare il soccorso alpino francese. Se uno succede qualcosa anche da un punto di vista giuridico, dove siamo? Siamo in Italia o siamo in Francia? Lì parlano di crête militaire, le creste militari, un termine del 1796. Oggi si parla di creste amministrativi, cioè gli spartiacque. Allora è una questione di convivere pacificamente con i cugini francesi, ma il cugino a casa sua e il suo zerbino, il cugino italiano a casa sua. Però sindaco di Courmayeur, è vero che alla inaugurazione dello Skyway non era presente il sindaco di Chamonix, cioè il versante francese, non c'era sindaco? C'era, perché sono sicura che era in vacanza, perché me l'aveva preannunciato un mese prima, per cui c'era qualcuno di francese, di autorità? Credo di no, però no. Per quanto riguarda il sindaco, so che gliene avevo parlato molto tempo prima, gli ho detto guarda, non avevo ancora tra l'altro la data certa, ho detto però guarda che se in quel periodo sono in vacanza, per cui è un po' dura. Ma tutto questo, sindaco, ci dica la verità, a parte finire anche con qualche articolo di colore sui giornali o in una trasmissione radiofonica nazionale, ha delle concrete problematiche, riflessi problematici poi sugli italiani e sulla vita amministrativa di un comune? Sì, perché è vero quello che è stato detto, che i confini sono anacronistici, però se è vero che esistono i confini di Stato, è vero che pongono tutta una serie di obblighi di rispetto o comunque anche di gestione semplicemente di un territorio. Io voglio ricordare che i sindaci sono responsabili del proprio territorio e l'abbiamo comunque sempre gestito pacificamente, perché comunque anche dal punto di vista dei soccorsi alpini ci sono degli accordi che nel tempo sono maturati, per cui il confine non è così importante, ma si pensa al soccorso prima che alle competenze. Però è vero che nella vita amministrativa di un comune, e mi permetto anche di dire di uno Stato, è seppur sempre importante parte, perché comunque esiste una competenza, esistono delle responsabilità e ognuno deve sapere su che porzione di territorio deve gestire. Allora io mi devo fermare, ringrazio il sindaco di Courmayeur. In 10 secondi, Simone, hai qualche nuovo progetto in vista? Sì, vado in Pakistan, che è un altro paese non tranquillo anche sul punto di vista dei confini con l'India. A fare che? Lì si sta facendo una guerra. Sì, vado a tentare Nanga Parbat, una montagna di 8125 metri, nessuno l'ha mai salita d'inverno. Quando fai? Quando lo fai? Per il nostro inverno, quindi dicembre e gennaio. Dicembre e gennaio. Colgo l'occasione per salutare il sindaco di Courmayeur, ci siamo visti recentemente. Tenga duro contro questi francesi, tenga duro. Ecco. Avessimo fatto noi così con i francesi, ce l'avremmo fatto. Mamma mia, tenga duro. Allora è l'invito di Simone Moro. Ti seguiremo in questa tua nuova impresa o scalata. Senza impresa, è un'impresa, ma so come tu la vivi con lo spirito giusto. A domani 6:30 noi ci saremo, e voi, debosciati miei.